in primo piano. Buongiorno, eccomi Dino Pesole con voi questa mattina per commentare, leggere insieme e vedere insieme, anche se non fisicamente per voi che ascoltate, quello che riportano i giornali oggi con grande evidenza sulle prime pagine, ma anche all'interno con singoli approfondimenti. In primo piano sui giornali di oggi, direi su tutti i giornali, senza alcuna eccezione, sono le affermazioni, le esternazioni a tutto campo di ieri del presidente del Consiglio Berlusconi, che era a Danzica per la cerimonia di commemorazione dell'inizio della Seconda Guerra Mondiale. Sono delle affermazioni contro la Commissione Europea in particolare e i suoi portavoce a proposito della politica di immigrazione del governo e in particolare l'ultimo respingimento di 75 clandestini. Ecco, in particolare vediamo il titolo della stampa: Berlusconi attacca l'Unione Europea, nuove critiche ai giornali, non sono malato e mai fatto festini. Ecco, a questo proposito Berlusconi risponde anche a delle domande dei cronisti, che ovviamente in questi casi sono abbastanza prevedibili e scontate, e riguardano diciamo anche le vecchie polemiche che hanno accompagnato la scorsa estate, le settimane scorse, ricorderemo tutti, a proposito dei veri o presunti festini del Premier. Quindi lo abbiamo seguito tutti, diciamo il caso di Noemi, di Patrizia, i cosiddetti festini. Ecco, cosa dice Berlusconi? Berlusconi dice: non ho mai fatto festini né pagato donne. E a questo proposito attacca Repubblica e dice: questo è un partito di fatto, che è, in particolare lo ricorda proprio Repubblica, un partito, un super partito politico di un editore svizzero con un direttore dichiaratamente evasore fiscale. Dunque, un attacco a tutto campo che ritroviamo ovviamente nel titolo di prima pagina di Repubblica, che titola appunto: Berlusconi sfida l'Europa, basta critiche all'Italia, l'ira del Premier dopo le dichiarazioni dell'Unione Europea su libertà di stampa e immigrati. Ovviamente qui dietro c'è sicuramente una serie di osservazioni che vengono effettuate in sede europea in questi giorni, sia a livello di portavoce che a livello di commissari, a livello informale e anche formale, sul fatto che, come sappiamo tutti, il governo italiano ha deciso di adottare una linea dura contro l'immigrazione clandestina, in particolare relativamente ai cosiddetti respingimenti. Ce ne sono stati, l'ultimo è stato di qualche giorno fa, 75 clandestini respinti, e a detta di questi portavoce della Commissione si tratta di un provvedimento che contrasta contro il principio della libera circolazione e comunque diciamo le direttive in questo settore che vengono dall'Europa, e dunque critiche vere o presunte, implicite, al governo italiano, e Berlusconi risponde in questo modo abbastanza, diciamo, irato e forte. Anche il Corriere della Sera ne dà conto: nell'apertura Berlusconi avverte l'Unione Europea, parli solo il Presidente, basta esternazioni o blocchiamo tutto. Ecco, qui la minaccia è: blocchiamo i lavori del Consiglio Europeo. Ovviamente anche il Messaggero ne dà conto, anche se non nell'apertura, nel taglio centrale: immigrati, tensione Italia, Unione Europea, il Premier, parli solo la Commissione, sono pronto a bloccare i lavori. Oggi vedremo se ci sarà un seguito a questa vicenda. L'altro argomento, dicevo prima, è la nuova puntata, possiamo chiamarla così, di questo caso politico-mediatico, potrei definirlo, in salsa italiana, che è questa vicenda che ha tirato fuori il giornale nei giorni scorsi a proposito delle veri o presunti aspetti della vita privata e sessuale del direttore dell'Avvenire Dino Boffo, che ha provocato una durissima polemica politica, reazioni con contrasti anche di tipo politico-diplomatico tra il governo italiano e la Santa Sede, veri o falsi scoop, veline informative, insomma un bel caso politico-mediatico che oggi ritroviamo ovunque sulla stampa italiana, in particolare il Corriere della Sera che dà grande spazio a questa vicenda col titolo Boffo respinte le dimissioni. Il Papa a Bagnasco, stima e apprezzamento per la CEI, sostegno alla direzione dell'Avvenire, il giudice rivela solo una parte del fascicolo, quindi quasi dà conto del fatto che comunque il pontefice è sceso in campo per sostenere i vescovi in questa polemica. Anche la stampa ovviamente ne dà conto, anche se con un rilievo minore. Il Papa chiama Bagnasco ostima per la CEI e anche ogni altro giornale, direi più o meno, insiste su questo tema con evidenza appunto alla presa di posizione del Papa. E cosa fa? Vediamo un po' cosa fa l'Avvenire e poi vediamo anche il giornale. L'Avvenire, che è il giornale, come dire, coinvolto in prima persona, anche fisicamente, nel suo direttore, da questa polemica, ne dà conto in un articolo che non è l'apertura, ma è nel taglio basso, in cui si sottolinea il fatto che dal Papa è giunta stima e gratitudine per la CEI e per il suo presidente, e che il cardinale Bertone si dice vicino al direttore di Avvenire. Quindi si sceglie almeno in prima pagina una linea di estrema prudenza. Ma il giornale, che ha appunto provocato tutto questo pandemonio, cosa fa? Beh, il giornale ovviamente ritorna sull'argomento con un titolone: il direttore di Avvenire ha mentito. Boffo e i suoi difensori d'ufficio ci insultano e ci accusano di ogni nefandezza. Ora emerge la verità, a differenza di quello che racconta. Per i giudici fu lui a telefonare e a molestare una donna, anche alludendo ai rapporti sessuali. Bene, ora vorrei brevemente cambiare argomento per segnalare alcune notizie che riguardano l'economia e che troviamo con evidenza nell'apertura del Sole 24 Ore di oggi, apertura in cui si parla di una crisi a due facce, vale a dire due aspetti che comunque vanno tenuti insieme per capire se in che modo riusciremo a venire fuori da questa grave crisi economica globale che riguarda l'intero mondo. Da almeno la scorsa estate. Il titolo è Ordini bene, male il lavoro, con riferimento al fatto che, secondo l'ISAE, l'indice di fiducia delle imprese manifatturiere è risalito a quota 74,8 in agosto ed è il livello più alto da ottobre 2008. Grazie alle buone prospettive degli ordini sia in Italia che all'estero. E questa ovviamente è una buona notizia, e sono positivi anche i dati relativi al mercato dell'auto, con un aumento delle immatricolazioni italiane dell'8,54%. D'altro canto, però, continua ad aggravarsi il bilancio sul fronte del lavoro. In Italia l'occupazione nelle grandi imprese è peggiorata dello 0,3% mensile in giugno al netto della cassa integrazione. Quindi due aspetti che possono essere considerati in controtendenza. Da un lato dei segnali, seppur ancora, come dire, timidi, ma rilevanti, che si possa cominciare a uscire, a vedere la fine della crisi, e dall'altro però le incertezze che persistono, permangono sul fronte del lavoro, che poi è quello che interessa la vita di tutti noi, cioè l'occupazione, quando torneremo, insomma siamo quasi ormai tornati quasi tutti dalle vacanze al lavoro, all'attività ordinaria, appunto molto spesso accade che si possano trovare fabbriche chiuse o insomma. Crisi dell'occupazione è uno degli effetti più rilevanti della recessione nella quale siamo coinvolti tutti. A questo proposito segnalo un'interessante apertura dell'inserto del Sole 24 Ore Roma Lazio che parla di risalita che comincia dall'energia. Cioè verso l'autunno, rinnovabili, informatica, infrastrutture immobiliari, i settori più reattivi, almeno per quel che riguarda, diciamo, la regione, del Lazio. E poi si ricorda anche in un interessante articolo, si ritorna sul problema del caos valigie di Fiumicino che non trova mai responsabili. Questi sono due argomenti. Con i quali chiudiamo questa prima parte della rassegna stampa, poi ci sono molti altri articoli che vorrei segnalarvi, ma ne riparliamo tra breve dopo le informazioni per chi viaggia. In primo piano. Bene, eccoci ancora con la rassegna stampa. Io vorrei riprendere con un'altra notizia che riguarda l'economia e riguarda in particolare i conti dello Stato che troviamo sul Sole 24 Ore, richiamato in prima pagina, ma anche su altri giornali, ed è l'informazione mensile che viene dai conti pubblici. Riguarda il deficit, che, come sappiamo, è quell'indicatore importante che fotografa, come dire, l'andamento dei conti e quindi l'equilibrio tra le entrate e le uscite dello Stato ogni mese e poi a fine anno. L'informazione che arriva dal Ministero del Tesoro, che ieri sera ha diffuso i dati, è che in 8 mesi, vale a dire nel periodo gennaio-agosto, il deficit dello Stato aumenta a 61 miliardi, il che vuol dire che sostanzialmente in 8 mesi è il doppio rispetto allo scorso anno. E questo è l'evidente effetto della crisi, la crisi economica che, oltre ad avere quelle conseguenze che abbiamo segnalato poc'anzi, cioè sulla fronte del lavoro, è evidente, siamo tutti più poveri, c'è una sofferenza evidente sul mercato del lavoro, sull'occupazione, ma anche sui conti pubblici perché calano le entrate fiscali, è evidente perché l'economia tira di meno e dunque i conti sono di nuovo in rosso. Il Tesoro però a questo proposito è abbastanza rassicurante perché ci dice che gli incassi fiscali comunque sono sostanzialmente in linea con le previsioni e dunque questa caduta, no, dei conti dello Stato si deve sostanzialmente all'effetto della crisi economica sui conti pubblici. Vorrei chiudere questa piccola parentesi legata all'economia anche per parlare un attimo di federalismo fiscale, perché vi segnalerei come spunto di riflessione, sul quale poi ovviamente ognuno ha i propri punti di vista, ma secondo me è un argomento di grande interesse e sicuramente sarà un argomento importante di discussione nei prossimi mesi. E riguarda le tasse, annoso problema col quale noi troviamo a fare i conti in un paese che presenta, come sappiamo tutti, degli altissimi livelli di evasione fiscale. Secondo Alberto Quadrio Curzio, che è una illustre economista che ne scrive sul Corriere della Sera, le tasse potrebbero, nel titolo c'è una quasi certezza, scendere quando il federalismo fiscale potrà essere attuato, perché come sappiamo il federalismo fiscale è stato approvato nella sua cornice, una legge delega, e ora si attendono i decreti attuativi, i decreti legislativi per dare corpo a questo disegno importante che dovrebbe attribuire nuova facoltà impositiva agli enti locali e dunque alle regioni, ai comuni, alle province. Allora, la tesi di Quadro Curzio, ve la sintetizzo perché l'articolo è molto lungo e interessante, è che certamente il federalismo fiscale rappresenta una scommessa e che probabilmente, in questo devo dire, si riecheggia anche quanto ha affermato più volte il ministro dell'economia Tremonti, se il federalismo fiscale verrà attuato correttamente, se ci saranno cioè adeguati criteri compensativi, perequativi, per evitare che ci siano spaccature all'interno del paese, potrebbe essere questa la strada per cominciare a ridurre le tasse anche attraverso il coinvolgimento diretto degli enti locali che molto più dello Stato, sappiamo, sono a stretto contatto con quello che oggi si chiama il territorio, cioè con i cittadini, e dunque sono più in grado di percepire sul campo qual è la reale capacità o diciamo di reddito, almeno in teoria, dei cittadini. Segnalo, e cambiamo argomento, ritorniamo un po' alla prima parte della nostra rassegna stampa, segnalo le prime pagine degli altri giornali che comunque, come sempre, messe tutte insieme danno uno spaccato interessante di quello che è l'informazione del nostro paese, che è un'informazione schierata, non c'è dubbio. Allora, Libero sceglie di aprire su una questione che riguarda le escort della sinistra, e cioè è la risposta dall'altra parte all'attacco che è stato condotto nei mesi scorsi al Presidente del Consiglio sui famosi festini. Letti puliti, l'escort della sinistra, scossa nell'inchiesta di Bari, due ex assessori di Vendola finiscono nei guai per un giro di prostituzioni. E va bene, questo è il titolo di Libero. Liberazione mi colpisce perché ha una bella foto nella sua prima pagina che raffigura le frecce tricolori che ieri, lo ricordavamo nella rassegna stampa di ieri, erano a Tripoli per le celebrazioni dei 40 anni della presa del potere di Gheddafi, e c'è stata una polemica, lo ricorderete, sul fatto che il fumo delle frecce tricolori dovesse essere o verde o tricolore. Perché verde? Perché la rivoluzione di Gheddafi è verde, cioè si caratterizza, viene appunto per questo definita, e dunque i libici hanno chiesto il fumo verde, ma in realtà questo non si può fare perché le frecce tricolori sono tricolori, e dunque per questo il fumo deve essere tricolore. È nato una polemica che ovviamente sintetizzo anche in modo un po' scherzoso, ma che comunque poi si è conclusa con la decisione, cioè hanno vinto sostanzialmente, ha vinto l'Italia in questo, la decisione dell'Italia di far sì che le frecce tricolori sfilassero nei cieli libici con il fumo tricolore, così come avviene sempre. Il manifesto, cosa fa il manifesto? Apre con una foto di un Berlusconi molto aggressivo col dito puntato, che si chiama, il titolo sotto la foto è Black Bloc, diktat di Berlusconi sui respingimenti degli immigrati, silenzio o blocco l'Europa, quello che il manifesto chiama Eurodelirio del Premier. Brevissimamente, perché mi segnalano che stiamo per chiudere, segnalo Europa, l'organo del Partito Democratico che apre ancora sulle polemiche sui respingimenti. L'ultimo nemico di Silvio è un portavoce dell'Unione Europea, mentre l'Unità apre in modo del tutto diverso, sceglie di aprire con una esclusiva che dà conto delle torture in Libia. Ecco cosa nascondono i profughi respinti: sangue, segni di violenza nel centro di detenzione di Ganfuda. I prigionieri somali volevano fuggire e chiedere asilo. L'Italia li ha consegnati ai carnefici. Infine, il Mattino, che apre sulla questione appunto del direttore dell'Avvenire. Il Papa si schiera, stima ai vescovi. Bene, per oggi la nostra rapida carrellata sui giornali si chiude qui, vi do appuntamento a domani, e ora la linea torna a 24 mattino con Alessandro Milan. Grazie a tutti da Dino Pesole.